Signore e signori, benvenuti al programma più lurdo della storia della televisione italiana. Radio! Mandate a letto i bambini e cacciatevi i mutande. Gamba, ma fatti vedere uno buono, che mi capozzo la vola con questa legge? Putta, muovate! Buonasera, oh lord di merda! Al colpo grosso channel! Un canale che ti fa perdere la vista! E per la madonna che puzza! Lo sapevo che era puzza! Ecco i programmi oi! Alle 18 mi ci bagninin! Tu faccio io o ponte di Messina! A partecipazione Patrizio Rossetti! Michelangelo Fismacchias e il ministro Carfagna. Alle 19 il film zitto e ne sto facendo la presentazione, capote, ne avremo doppia, gioia da nanna. Sì, bomba, ma c'è ingarrato, come fate a spendere? Alle 19 stavo dicendo il film con Denaglia e Vladimir Luxuria. Troppo gioco che sorpresina! Alle 20 un TGQ. Alle 21:30 direttamente da Arcore il nostro nuovo reality 8 Strisce e Succa. Alle 22:30 reportage scientifico con i papici Rosi Bindi. Alle 23:30 fine della trasmissione. Mi raccomando, i manazzati e attenzione che ha perduto la vista col colpo grosso Gianni. E tu viene cacacingato. Regia, moccio sacco.